Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. And you said President Obama. Are you praying for his death? Yes. So you're praying for the death of the President of the United States? Yes. Do you are you concerned that by saying that you might find yourself on some kind of a Secret Service call or FBI wanted list, or do you think it's appropriate to say something like that, or even pray for something like that? I think it's appropriate to pray the word of God. I'm not saying anything. What I'm doing is repeating what God is saying. And if that puts me on somebody's insomma, list, lasciamoli parlare, ma qui la questione, cari ascoltatori, è seria, perché c'è un reverendo, un pastore della parola di Dio, almeno lui dice di essere tale, che si chiama Willie Drake, che sta in una tranquilla intervista telefonica, sta rispondendo a un giornalista che gli chiede: ma insomma, reverendo, lei mi conferma che prega per la morte del presidente Obama? E lui concisamente dice sì, ma non è preoccupato, insomma, che dire queste cose ai suoi fedeli possa rappresentare, come dire, un problema, forse anche un problema per lei, no? Magari l'FBI la verrà a cercare. E lui motiva la questione, motiva il suo odio profondo, e proprio di questo oggi vogliamo parlare in apertura di Anni 10, perché anche questo ci sembra un fenomeno che sta, come dire, arrivando insieme al cambio di decennio. L'America sta scoprendo l'inciviltà nel discorso pubblico, è anche l'inciviltà del discorso pubblico e politico, e da parte nostra stiamo guardando, ma sappiamo bene che poi si sa essere all'altezza in questo territorio. Di fatto è nato un circolo, un neologismo sui media americani, questa parola nuova è wingnut. Wingnut in realtà sarebbe una specie di bullone, no? una vite che serve per tenere insieme dei pezzi, ma in realtà in questo senso è tutta un'altra cosa. È un estremista pazzo, insomma, per dirla in parole semplici, un estremista pazzo teoricamente di destra o di sinistra, ma di questi tempi, dal momento che la, tra molte virgolette, sinistra, diciamo, l'America progressista è alla Casa Bianca e controlla il Congresso, allora sono soprattutto i wingnuts, ovvero gli estremisti pazzi di destra a fare notizia, e sono nate già delle voci sui vocabolari, cioè, ci sono studiosi che analizzano il termine e provano anche a sancire una definizione, parlano di un rumoroso esemplare della talk radio e delle TV di attualità, le cui parole sono scandalose ma vengono comunque prese sul serio, che è esattamente quanto capita a questo pastore Willie Drake, che è diventato a tutti gli effetti un personaggio pubblico, semplicemente professando tutta la sua antipatia, tutto il suo odio, tutto il suo crescente livore verso un presidente che naturalmente lo stuzzica, e cosa fa? Va in televisione e canta. Questo è proprio Barack Obama insieme a una vasta serie di celebrità, delle quali poi riparleremo tra poco, ma lui è lì, fa anche il suo pezzettino da solista in questa rievocazione di un canto che fu uno degli inni del Movimento per i Diritti Civili. Vi dico, più tardi ne riparliamo, anche per un'altra partecipazione eccezionale. Ma parlando di wingnuts, parlando di discorso aggressivo, parlando insomma di reverendi che fanno prediche la domenica augurandosi la morte del presidente, però attenzione, c'è uno che ha precisato che non vuole che il presidente Obama venga ammazzato, si limita ad augurarsi che muoia di cause naturali. Ebbene, è uscito un libro che è edito da quello che in questo momento è il sito più alla page dell'informazione americana. Si chiama Daily Beast, non a caso è una creatura di Tina Brown, no? La donna che fece grande Vanity Fair molti anni fa e poi tentò tante altre avventure editoriali, tra cui una nota biografia di Lady Di. C'è anche una piccola casa editrice che si muove all'interno di questo sito, si chiama Beast Books, i libri della bestia, e per questi tipi esce Wingnuts, ovvero How the Lunatic Fringe is Hijacking America, ovvero come la frangia lunatica sta rubandosi l'America, a firma di John Avlon, che è un giornalista che collabora per l'appunto con Daily Beast. Vi leggo qualche riga dall'attacco di questo libro su questa coalizione e l'odio, vogliamo chiamarla così, che è destinata poi a costituire un fattore decisivo nei voti del 2010-2012. Dobbiamo insomma cominciare a considerare l'aperta ostilità, l'aggressione verbale, lo sparigliamento della tradizionale etichetta della politica americana come una nuova realtà per questi scenari. E lui fa un nome come leader influente dei Wingnut. Dice: nel primo anno dell'amministrazione Obama non è stato eletto dal popolo, non è neppure un repubblicano, ma è un conservatore indipendente, un ex di jockey che si descrive come uno schizofrenico borderline con trascorsi di dipendenza dai farmaci, mormone convertito, specializzato in accesi dibattiti e in confessioni pubbliche, presenta un delirante mix di politica e religione, si attribuisce l'etichetta di coniugatore di spettacolo e illuminazioni, in pratica semplicemente Glenn Beck, il noto Anchorman della Fox. Ma sentiamolo un altro di questi predicatori che vogliono Obama morto. Questo nella fattispecie si chiama Steven L. Anderson, anche lui dritto in televisione. Why should Barack Obama melt like a snail? Why should Barack Obama die like the untimely birth of a woman? Why should his children be fatherless and his wife a widow? In sostanza, Dio, anti-omosessualità e fucili, armi da fuoco, possibilmente automatiche. Questa è la nuova trinità del reverendo Steven Anderson. La preghiera è quella di odiare e di possibilmente eliminare Obama. Il fatto è che è anche così si fa mediaticamente rumore, ovvero si entra a far parte del gioco dello spettacolo 2010. I wish I could swim like dolphins can swim, though nothing will keep us together, we can beat them. And ever, how we can be heroes just for one day, how we can be heroes just for one day. I will be king and you will be queen, though nothing will drive us away, how we can be heroes. Yes. Just for one day. Above our heads. Anni 10. Parole. Avoiding the point, you know, of avoiding the real conflict and grappling with the real problem, which is what the hell are we going to do musically now? You know, Rockus Theater is the same old music, the same old gunk dressed up in new clothes, you know, with a, you know, I mean, I saw Jethro Tull where they had one member of the band got in a bunny rabbit suit and hopped across the stage. Insomma, questa è una voce che personalmente amiamo parecchio, è quella di un critico musicale scomparso tanti anni fa, ma che scrisse una, come dire, scrisse delle pagine importanti, ma soprattutto varò uno stile, un approccio fatto di totale dedizione, come dire, buttarsi sulla musica, farsi attraversare dalla musica, nel frattempo raccontarla. Lui c'è anche un po' morto per questa vocazione, che poi aveva anche del nichilismo dentro, e si chiamava Lester Banks. Qui si stava chiedendo che ci facciamo con questa musica adesso, era tanti anni fa, pensate un po' se non ce lo dovremmo chiedere anche oggi, che ci facciamo con questa musica. Dice: ho appena visto un concerto di Jethro Tull che c'hanno delle ragazze mascherate da conigliette sul palco, ma dove stiamo andando? Beh, la questione della critica musicale, che è una questione in un certo senso marginale, però in quella nicchia poi raccoglie grandi passioni, grandi partecipazioni, persone che come dire, non hanno mai smesso di restare ragazzi, di essere appassionati, no? Si dice che la musica la si sente bene solo fino a una certa età, però c'è chi invece tiene duro e continua a avere una voglia, un desiderio di approcciare le novità musicali con tutta la capacità di comprenderle, sondarle, analizzarle, insomma di fare professionalmente o anche semplicemente privatamente della critica musicale. È una cosa di cui anche in Italia tanto si è ragionato e si è discusso. A questo proposito, nel nostro spazio delle parole, ovvero dei libri, delle cose da leggere di cui nutrirsi e che noi come nostro mandato vi segnaliamo, perché non sono proprio visibili, non ne parla nessuno, quindi tanto vale prendere un appunto al riguardo, due titoli molto bilanciati, no? in un vero regime di eguaglianza, perché uno arriva da Los Angeles, l'altro arriva da New York. Uno è in realtà la raccolta degli scritti del critico musicale del Los Angeles Times e l'altro è la raccolta degli scritti musicali del critico del New York Times. Rispettivamente si chiamano Robert Hilburn, quello di LA, e Robert Palmer, quello di New York. Sono due libri interessantissimi, naturalmente, per chiunque negli ultimi 30-40 anni si sia nutrito di rock, ma con degli approcci completamente diversi, e questo è interessante sottolinearlo. Il libro di Robert Hilburn, che è pubblicato da Rodale e ha un titolo bello, si chiama Cornflakes with John Lennon, ovvero Fiocchi d'avena con John Lennon, ha un approccio, come dire, passionale, ovvero corre sempre attorno alla domanda: quanto è lecito avvicinarsi agli artisti, quanto è lecito diventare loro fan, fino a che punto, se si diventa amici per esempio di John Lennon e si mangiano i fiocchi d'avena la mattina con lui, poi se ne può ancora scrivere? Ed è un interrogativo interessante a cui Hilburn dà delle risposte, sebbene spesso contraddittorie. Invece Robert Palmer è un critico più classico in un certo senso, no? Più freddo, più calcolatore, più severo nei propri giudizi, ma anche poi estremamente disponibile a seguire la parabola artistica di soprattutto un nuovo artista che cresce nel modo giusto, spostandosi tranquillamente tra un genere e l'altro. Di fatto però entrambi hanno fatto della critica un mestiere, della critica rock un mestiere, e resta sempre un po' un interrogativo, no? Perché se ci pensate bene, no? Poi crescendo con il passare degli anni, forse anche qualche nostro professionista avrebbe qualcosa da dire al riguardo, continuare a fare il critico rock forse può diventare il mestiere più assurdo del mondo. El escritor estadounidense J. D. Salinger morì ayer a los 91 años, el autor del mítico El Guardián en el Centeno. El mítico Guardián del Centeno, questo è il titolo in spagnolo del giovane Holden, The Catcher in the Rye, perché per parlare di Salinger non c'è niente da fare, al massimo vi possiamo mandare dei notiziari. Nella fattispecie questo era quello spagnolo, perché la notizia è globale. La morte di Salinger ha emozionato il mondo e ha spinto anche a venire allo scoperto tanta gente che attorno a Salinger, in silenzio, perché sennò lui ti faceva subito causa, ci stava lavorando. Nella fattispecie vi parliamo di uno sceneggiatore, si chiama Shane Salerno, pensate, lo sceneggiatore di Shaft, ve lo ricordate, il poliziotto nero. Da 5 anni sta lavorando a un documentario biografico su Salinger, che pare essere un vero mockumentary, come lo chiamano gli inglesi, ovvero un monumento documentario, con qualcosa tipo 150 interviste. Personaggi che non hanno mai parlato hanno accettato di parlare con lui: Philip Seymour Hoffman, Edward Norton, Gore Vidal. Tutto fatto segretamente. Chi lavorava per questo documentario doveva firmare dei documenti in cui garantiva di non rivelare niente. Insomma, c'è grande aspettativa, anche perché sembrerebbe che dentro il documentario ci sia, poi nel cuore del documentario, una intervista, pensate un po', proprio con Salinger, e tante rivelazioni su suoi inediti pronti a arrivare nei prossimi anni in libreria. Tutto ciò, se le cose vanno come il nostro Shane Salerno si augura, dovrebbe sbarcare a maggio al Festival di Cannes. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. Beh, prima vi parlavo delle frange estreme, no? della telepredicazione o comunque delle prese di posizione nei confronti, per esempio, di un presidente che un pastore, un reverendo può cominciare a augurarsi che muoia così. Probabilmente, soprattutto per farsi pubblicità. Bene, le frange estreme della cultura popolare sono piene di stranezze, di bizzarrie, di cose molto divertenti, di cose molto curiose, in certi casi cose anche inquietanti, e ci sono naturalmente gli avvistamenti di Elvis Presley al supermercato, ci sono quelli che non muoiono mai, ci sono storie stranissime, c'è la Hollywood Babilonia. Adesso c'è un libro formidabile che abbiamo incrociato e che vi vogliamo assolutamente segnalare, anche perché abbiamo qualche esperienza diretta. Si chiama Look It's Jesus, ovvero guarda, c'è Gesù. È firmato da Harry Choron ed è una raccolta in buona sostanza di avvistamenti della figura di Gesù e comunque delle personalità a lui vicini: Madonna, angeli, santi, San Giuseppe e quant'altro, nei luoghi più tipici della cultura popolare, quindi per esempio su una fetta biscottata che si è tostata, sulla parete di un muro. Insomma, siamo dalle parti naturalmente delle statuette della Madonna che lacrimano e piangono per il bisogno divino che continua comunque, no, a far parte, a essere organico alla modernità. Io vi consiglio questo libro perché è divertente, spassoso, appassionante e anche a modo suo romantico, con una spiritualità anche se naturalmente estrema, come dicevamo, e ricordo il giorno in cui a Chicago venni convocato d'urgenza in un sottopassaggio di un'autostrada periferica di Chicago, dove già si erano raccolte tutte le troupe televisive della zona, semplicemente perché su un muro una macchia di umidità aveva preso magicamente le forme, le fogge, perfino qualche sfumatura di un quadro della Madonna, una specie di annunciazione nata lì sotto quel cavalcavia davanti alle telecamere. Arrivati i pulmini e i giornalisti con l'impermeabile per fare lo stand up, e dietro su questo muro era apparsa la Madonna, e dopo poco erano apparse le candele, dopo poco erano apparsi i fedeli, dopo poco era apparsa tutta la passione di questo mondo, di questa America, di questo universo che comunque continua ad avere bisogno del sacro. Clay is coming home on vacation. Home to Beverly Hills. Home to his two closest friends. All you have to do is relax. I'm going to pay you back. All you need to do is trust me. I don't want to trust you, Julian. I just want my 50K, all right? Home to the beautiful. Allora, questo è il trailer di un film che fu di grande successo. A noi piacque moltissimo, ma chi se ne frega, direte voi. Comunque era la versione cinematografica di Less Than Zero, tra l'altro con quel Robert Downey che molti anni più tardi sarebbe diventato famoso dopo una bella apocalisse personale, chiamiamola così. Perché ve ne parliamo? Perché il Guardian pubblica un articolo utile di quelli da ritagliare, che segnala molti autori, molti nuovi autori che possono essere raggruppati sotto l'etichetta di generazione Easton Ellis. Sono infatti esattamente 25 anni dalla pubblicazione di Less Than Zero e in un certo senso Bret Easton Ellis è arrivato ad essere quello che, suppongo, nella sua vanità ma anche nella sua ostinazione sempre ha sognato di essere, ovvero diventare un classico, no? Da quando intervistava quasi in ginocchio Allen Ginsberg. Beh, secondo l'autore di questo articolo ce ne sono tanti sulle sue tracce e io qualche titolo ve lo voglio dare così per vedere se è vero, insomma, se è vero che si può rifare, no, quel linguaggio asciutto, minimale, indolente al tempo stesso sconfortante però appassionante di cui Ellis si rese responsabile soprattutto in Less Than Zero, prima poi di prendere la sbornia, no, dei marchi di American Psycho, insomma, e cambiare un po' indirizzo letterario. Qualche titolo. Allora, un autore dal nome giapponese, cinese anzi per la precisione, si chiama Tao Lin, Shoplifting in American Apparel, dell'autore Tao Lin. Una versione indiana di Bret Easton Ellis si chiama Atish Tazer, il suo romanzo è intitolato The Temple Goers, quelli che vanno nei tempi. Un titolo americano, Ryan David Jan, il titolo è Acts of Violence, atti di violenza. Segnatevi questi titoli, poi li troverete naturalmente come sempre sulla pagina Facebook di Anni 10 e anche sul sito di Radio 24 nella pagina del nostro programma per vedere se è possibile che nel secondo decennio del terzo millennio, no, nasca un nuovo Bret Easton Ellis. 10. Suoni. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept that that soon you'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving. They better start swimming or you'll sink like a stone for the times they are a change. I primi suoni che vi mandiamo non potevano essere più classici, però appartengono a una occasione particolare, vogliamo anche noi un pochino celebrare. Si è tenuta a Washington, alla Casa Bianca, una performance, uno spettacolo particolare intitolato A Celebration of Music from the Civil Rights Movement, una celebrazione della musica dal movimento per i diritti civili, insomma, ripercorrere quei suoni, quei canti, quegli inni e naturalmente quelle personalità hanno partecipato in tanti, anche se poi alla fine c'è stato un incidente, no? È stato anticipato di un giorno l'evento perché si sapeva, i meteorologi americani non scherzano, sono veramente dei capò, insomma, si sapeva che arrivava il thunderstorm e quindi hanno accelerato, quindi ci sono state delle defezioni, ma uno che non è mancato è stato Bob Dylan, che essendo secondo me uno spiritoso per natura, non so se gli viene naturale o è un caso, comunque a fronte appunto del tifone che incombeva ha cominciato a cantare di Tempo che cambia. And I'll soon shake your windows and rattle your walls for the times they are a changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your own road is rapidly aging. Get out of the new war if you can't lend a hand, for the times they are a change. Su YouTube trovate tutto il set, tutta la scaletta formidabile di questo evento, guardatela, ci sono cose belle, tra l'altro Dylan in trio si è presentato, sapete lui cambia sempre le sue canzoni, qui a orecchio direi con accompagnamento di contrabbasso, pianoforte e la sua chitarrina, appunto ci sono stati quelli che non hanno fatto in tempo arrivare, doveva esserci per esempio De Niro, Robert De Niro, ma non ce l'ha fatta, doveva esserci Queen Latifah, John Legend, Natalie Cole ha preso il posto di John Legend e poi alla fine ha cantato anche Barack Obama, come avete sentito nella prima parte di Anni 10 di oggi, comunque insomma memorialismo, ricordi, nostalgia, ma con un presidente come Obama è prevedibile che queste cose vadano in scena e del resto è interessante che facciano parte ormai della storia nazionale americana ed entrino dalla porta principale della Casa Bianca anche i movimenti per i diritti civili. Ora invece parliamo di un paio di dischi che ci tengo parecchio a presentarvi perché sono belli, notevoli, importanti, insomma roba veramente da sentire in tempi nei quali roba da sentire non è ce ne sia tantissima in giro, quindi cercate di non perdervi. Facciamo un passino indietro però prima, please. Play. Join with you. All your hearts now seem so far from me. It hardly seems to matter now. Siete rimasti stregati lì, inchiodati, che sia domenica mattina o sabato sera, quando sentite Anni 10, allorché la vocina di Peter Gabriel ha cominciato a risuonare, vi si è mosso qualcosa dentro. Questa roba vecchissima, erano i Genesis agli esordi, quando lui si vestiva da margheritona, da volpe rossa, no? Cercava di capire i crimini nella nursery o raccontava folli storie, sembravano pezzi di Alice nel paese delle meraviglie. E Peter Gabriel, se si è stati o se si è ragazzi italiani, ma soprattutto se lo si è stati, come dire, ti corre a fianco, è sempre lì, immarcescibile. Prima con i Genesis, poi con la sua interminabile carriera solista, con le sue mille idee, così spesso fin troppo politicamente corrette, no? Tutto l'impianto di Real World, questa grande disponibilità a collaborare, ma poi sempre l'ostinazione nello sperimentare, certe volte riuscita, certe volte un po' noiosa. Di fatto c'è un nuovo disco di Peter Gabriel in circolazione ed è notevole, si chiama Scratch My Back, grattami la schiena in buona sostanza. Sono soltanto cover, quindi lui ha voluto rendere omaggio alla musica che gli piace, però sono cover non particolarmente chic, non particolarmente ricercate, sono proprio le canzoni che evidentemente gli sono rimaste in testa. Ci sono delle cose che ci hanno, come dire, fatto molto piacere, tipo c'è Bon Iver per esempio, un musicista ancora misconosciuto ma che piace evidentemente almeno a Peter Gabriel. Flume, il suo pezzo più famoso rieseguito da Gabriel. Ci sono Arcade Fire, Magnetic Fields, c'è Regina Spector, Randy Newman, Radiohead, insomma un sacco di roba, sempre nella versione minimalistica che lui ha scelto di adottare. Niente sezione ritmica, niente elettrico, pianoforte, archi, legni, un minimalismo, sembra Arvo Part, la sua voce in forma splendida sopra, e alla fine una versione di Philadelphia di Neil Young da leccarsi i baffi, o se siete dei romantici da versare la lacrimuccia, eccola. Sometimes I think that I know what love's all about, and when I see the light I know I'll be alright. I've got my friends in the world, I had my friends when we were boys and girls, and the secrets came unfurled. Quindi Scratch My Back, Peter Gabriel, che, come dire, sicuramente ha alzato i vostri livelli di riflessione. Adesso li abbassiamo un po', perché bene o male, insomma, non è un disco leggero. L'altro disco di cui voglio parlare non è leggero, ma va su altri ritmi, su altre sincopi, come si dice musicalmente. Mantiene misteriosamente il fascino e il mistero di sempre. E pensate che questi qua sono in giro da 20 anni. Si chiamano Massive Attack, sono uno dei laboratori più esoterici, più inafferrabili della musica inglese, in quella città a forma di cuneo, non so se ci siete mai passati, che si chiama Bristol, e se riuscite a superare un certo effetto respingente che il loro nuovo album ha all'inizio, poi non ve lo togliete più di dosso. Si chiama Heligoland. Heligoland è un titolo che, anche questo strano, evocativo, sono delle isolette, pensate, il nome di un arcipelago al largo delle coste tedesche, allo stesso piccola curiosità, lo stesso titolo aveva un album dei tedeschissimi, molto di culto, Noi, una band tedesca che chi diavolo se la ricorda. Qui tornano i due dei fondatori Massive Attack, ovvero Robert 3D Del Naya e Grant Daddy G Marshall, i due duri della storia Massive Attack. L'album, vi ripeto, è una ennesima ricerca sul rapporto tra suoni tono, rumore, tra ritmo e vocalità, però mescolando tutto come se ci fosse un frullatore che vi conquisterà senza dubbio alcuno. Ecco Massive Attack. Vision walls anni 10. Figure. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that. Lo so, sarà banale, ma adesso si fa così, no? Siamo negli anni 10 e quando si parla di New York non si mette, prendetevi un appunto, non si mette più New York, si mettono Jay-Z e Alicia Keys e poi si comincia a parlare tranquillamente dei fatti propri oppure invece di un evento che proprio a New York sta per andare in scena e che ha attratto la nostra attenzione per motivi numerosi. Tre, diciamo, motivo primo, c'è una grande rappresentazione di arte, di creatività contemporanea, di qualità credo piuttosto straordinaria e quindi andare a vedere, soprattutto se per esempio a qualcuno di voi che sta ascoltando capita una missione a New York di questi tempi, Whitney Museum è l'indirizzo da seguire. Ragione numero due, c'è di mezzo Francesco Bonami, un curatore d'arte di cui abbiamo particolare stima, di cui seguiamo il lavoro con particolare interesse. E motivo numero tre su cui adesso interrogheremo Bonami, che abbiamo tirato giù dal letto, è naturalmente se e perché appare questa identità fra il programma che facciamo noi, che si chiama Anni 10, e il tema della biennale che va in scena al Whitney Museum dalla prossima settimana, appunto intitolata agli anni 10, al decennio che si apre, ovvero qual è la ricerca e il tentativo che si intende consumare artisticamente. Da questo punto di vista, a firma di Bonami e del suo co-curatore, che si chiama Gary Carrion Murayari, se la pronuncia è giusta. Francesco, è giusta la pronuncia? Perfetta, ineccepibile. Hai visto? Allora, che cosa avete cercato in questi anni 10? Che cosa volete segnalare? Vogliamo segnalare che cos'è l'America in questi anni 10, cos'è l'America dopo il terremoto Obama, l'America dopo l'acquazzone Obama, come gli artisti vedono l'arte e il loro ruolo dentro una società che diciamo appunto è come un uragano che è scoppiato, è piovuto e adesso tutti stanno un po' ripensando il proprio ruolo all'interno di questo. Il Yes We Can di Obama è diventato secondo noi il Yes I Can degli artisti che guardano più intimamente più il proprio ruolo di ricerca e di come loro con il loro lavoro, con la loro presenza individuale, quasi intima, possono cambiare la società più grande, più collettiva e più di massa. Insomma, tu mi stai ritirando fuori il discorso del ruolo dell'artista, un discorso importante, diciamo. Sì, nel nostro viaggio attraverso l'America, alla ricerca di questi 56 artisti che faranno parte della Biennale, abbiamo scoperto che gli artisti stanno proprio quasi ritornando agli inizi della ricerca dei primi del Novecento, molto più sperimentale, molto meno ossessionata con le produzioni super tecniche, super costose degli ultimi 10 anni, quindi un ruolo molto più quasi da studio dell'artista contemporaneo. Che significa per gli americani, per te che tra l'altro hai curato una Biennale di Venezia, quindi l'accezione italiana, europea di Biennale, per gli americani può avere un significato parallelo, ovvero di periodico, no, sopralluogo, come siamo abituati a considerare noi questo appuntamento? Beh sì, è diverso perché la Biennale di Venezia è una mostra, una cosa molto grande, sono tante mostre dentro, è una grande kermesse internazionale, mentre questa è una mostra relativamente piccola che avviene dentro questo museo che fu costruito nel 1966, anche se la Biennale poi parte dal 1932, la Biennale annuale come è stata spesso, e vuole fare una ricognizione dell'arte, non tanto dell'arte degli americani, ma dell'arte degli artisti che vivono e hanno messo le radici in America. E proprio intorno a questo concetto di americanità che un po' si svolge tutto sempre la mostra, che cos'è, cosa vuol dire essere americano oggi, in un momento in cui tutti parlano appunto di internazionale, globale, via di seguito. Tra l'altro voi, mi sembra di capire, avete un po' sfidato gli artisti chiedendo un pezzo a testa, cioè mettete attaccate al muro, insomma fate vedere la cosa in cui credete veramente, niente piccole antologie, piccole monografie, no? Sì, abbiamo costruito una mostra che è un dialogo fra le opere, gli artisti hanno molto spazio con la loro opera nella mostra, la critica ci distruggerà dicendo questa volta, di solito dicevano che c'era troppa arte, quest'anno diranno che ce n'è troppo poca. Cioè pochi pezzi, però, dici? Beh, sono praticamente 70 pezzi, perché alcuni artisti hanno dei lavori composti da uno o più elementi, però sì, c'è molto spazio, c'è molto... diciamo che rispetta molto sia l'artista che il visitatore, che potrà, spero, guardare con una certa comodità questa mostra. Mi ricordo, Francesco, che una volta, visitando insieme una mostra, mi hai spiegato che ci sono anche dei trucchi per diventare artisti contemporanei di successo, e mi spiegasti che uno possibile era il think big, no? Fai qualcosa di enorme e la gente vedrà quello che hai fatto e magari lo noterà e potrai avere anche successo. Ecco, in questa Biennale Whitney, quali sono le opere un po' a sensazione, le sorpresone, ecco? Anche in questa Biennale Whitney non ci sono sorpresone, non c'è un artista che fa la voce grossa e non fa ascoltare gli altri, tutti più o meno parlano con il loro ritorno di voce abbastanza educato, è una mostra, come ho detto, abbastanza intima, e non ci sono appunto degli artisti eroi che fanno un monumento, ci sono artisti che presentano un loro modo di pensare, tutti in dimensione abbastanza equilibrata, c'è una grande entrata di questo artista di origine polacca, Piotr Klanski, che è una specie di grande palcoscenico, che forse è un'opera delle più spettacolari, però in linea di massima sono tutte opere abbastanza calme. Oh, per concludere, c'è questa interessante percentuale femminile, no? Addirittura la maggioranza degli artisti presenti sono donne, è il segno che avete voluto registrare di una tendenza in atto, vogliamo dire così? Ma forse, guarda, sì, per la prima volta di solito le artiste donne erano un 38-40%, quest'anno per caso, non abbiamo fatto apposta, sono 51%, sono 29 su 20, e 26 maschi, ma forse per questo motivo qui, forse in un'epoca che è meno macho, molto più riflessiva, le donne hanno una voce che viene fuori in modo più chiaro, più forte negli altri periodi. Ci sono tracce di Obama, di obamismo, di annata obamiana che si è chiusa in questa mostra. Avete messo dei segnalini a riguardo? Ma proprio segnalini, c'è un artista che ha fatto un divano ricoperto di giornali dove c'erano molte facce di Obama, ma non si nota quasi. Anzi, direi che forse Obama si mimetizza in questa atmosfera, perché la copertina del catalogo c'ha su un lato una foto ripetuta varie volte di Obama con il cappello da cowboy e nessuno lo riconosce, tutti pensano che sia qualche cosa altro, tutti chiedono chi è e tutti provano a sparare i nomi, ma nessuno dice Obama. Poi dopo un po', quando dice Obama, si accorgono che è Obama, ma non si riesce a riconoscere, quindi Obama c'è ma in modo molto mimetizzato. Va bene, quindi facciamo un fotografo di vai. No, ci sono, c'è una fotografa di una giornalista fotografa che ha fatto questo lavoro su questo soldato tornato dall'Iraq, vittima di un attacco suicida, che rivive, tenta di rivivere la propria vita nonostante sia stato deturpato da questo attacco, e quindi sono questi segnali che si riferiscono alla situazione attuale, ma non parlano di Obama direttamente. Al presidente americano. Bene, dal 25 febbraio al 30 marzo, solo per un mese, è una cosa piuttosto istantanea questa. No, dal 31 maggio, dal 25 febbraio al 31 maggio. Quindi c'è un tempo molto più lungo per... Sì, molto più ampio. Bene, se facevi il pessimista, ma dura tre mesi. Va bene, grazie a Francesco Bonami, quindi a partire dal 25 Whitney Biennale, se capitate dalle parti di New York, un appuntamento così da rispettare. Beh, poi non dite che non lavoriamo per voi, vi troviamo un motivo in più per andare a farvi un giro a New York, e poi voglio vedere quanto ci state al Whitney e quanto andate sulla Quinta Strada a fare lo shopping. Poi vi interroghiamo. Comunque, biennale del Whitney dal 25 al 31 maggio, come ha precisato il nostro ospite nonché curatore Francesco Bonami, qui a Anni 10 di oggi. Tutti i dati, informazioni, se ve le siete persi, le trovate naturalmente, li trovate sulla pagina Facebook del programma, che si chiama Anni 10, sulla pagina fan, che si chiama Anni 10 Radio 24, sul sito di Radio 24, nella pagina del nostro programma. Ci sentiamo fra una settimana. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, la parte tecnica è stata curata da Paolo Corleoni. Continueremo a indagare presente e immediato futuro. Ci sentiamo.